Wolf Trips, i viaggi del lupo. Ed eccoci di nuovo in diretta, ci siamo con una nuova puntata di Wolf Trips. Oggi sono un po' influenzato, ai microfoni Domenico sente. E per adesso solo Cristina abbiamo al microfono. Ci ma sei, adesso arriva, sì. Stiamo registrando uno studio bello nuovo, rinnovato, e oggi è la puntata numero 12 di Wolf Trips. Diciamo che siamo ormai alle battute finali dell'anno 2018 e questa sera avremo anche degli ospiti, perché è una band di Gallarate, ci tengo a sottolineare, e loro sono i Modular, dovrebbero arrivare tra un'oretta, quindi li aspettiamo. Sì, e poi abbiamo un'oretta libera per noi da dedicare ai nostri viaggi musicali. Bene. Intanto dietro la porta c'è anche Tony, che salutiamo. Adesso raggiungerà anche che lui. Che farà il suo ingresso da VIP. No, raggiungerà anche lui la sua postazione, giustamente. E, ricordiamo i nostri contatti, dai, questo sei bravissima tu, quindi ti lascio fare a te. Niente, ci possono scrivere, ok. C'è Tony che mi sta facendo le boccacce. Ci possono scrivere su Facebook. Ok. Ci possono vedere da Facebook. Sì, sulla pagina Wolf Trips. Bravissima. Ci possono sentire dall'app. Sì, mancherebbe annusare come toccare, come perché poi ci possono anche mandare messaggi vocali. Giusto. E WhatsApp al numero 340 136 17. Perfetto. Io direi allora che iniziamo subito con un brano di un ragazzo italiano che si chiama Sick Rat, che si chiama così, il nome è un po' particolare, però è noto. Direi che in realtà è il nostro come si può dire, supporter numero uno, perché ci ha mandato dei messaggi di molto cordiali, molto calorosi nei nostri confronti e in quello che stiamo andando a fare. Mi sa che qualcuno c'ha freddo fuori. Adesso lo facciamo entrare. Volevo ascoltare il brano di un suo album che tra l'altro è uscito il 16 luglio del 2018 sull'etichetta Dusted Books, e lui fa questo genere un po' da un tempo trip hop, un po' particolare, come al solito da inizio serata, da inizio puntata. Ascoltiamo di Wolf Trips, quindi andiamo a ascoltarlo e poi dopo commenti. Recupereremo anche il buon Tony qua fuori. Tired. It seems like such a long time since I closed my eyes. I've got to go to the club. Why don't you get some sleep while I change my clothes? No, don't go away. Stay here and talk to me. Tell me things. Sweet and pretty things. I'll close my eyes and make believe they're true. Tears in your eyes. I offered you a way out. All you had to say when I showed the watch was just what I said. Johnny O'Clock, the hero. He wouldn't talk. He'll erect a monument to me. Put that coin down and listen to me. You're mad. You're stupid. Stupid? How much money have you got? Ecco Tony, visto che sei distratto ti chiederei la traduzione simultanea di quanto stanno dicendo. No, non è vero. Che casino che sto combinando. Sikrat, che tra l'altro salutiamo, avremo come ospite nelle puntate del nuovo anno, sto dicendo del nuovo millennio. mi sfugge la parola. Sik è tipo rat, vabbè, è topo. E Sik è malato. Malato, un topo malato. Tra l'altro lui, parlando un po' con lui, mi ha detto che ha anche altre net label, collaborazioni, artisti da proporci, quindi... Bene, bene, si apre un portale. Si apre, sì, infatti. Buonasera. Buonasera, buon Tony, come buon ti stavo Tony. Dicendo. Tra l'altro volevo salutare già qualcuno che ci sta seguendo da Spotify, tra cui Sabrina, che ovviamente è sempre sul pezzo. Da Spotify. Poi, ciao Sabri. Daniele Civelli, che si dimentica il Facebook aperto, e guarda che io sono buono, perché se fosse stato qualcun altro... avrebbe fatto ben altro. Poi salutiamo Fabio, che oggi è un po' uno dei due Fabio che oggi è assente, perché l'altro Fabio l'ha mandato a lavorare. Giusto. Ciao Fabio. Ciao Fabio. E che è lì col pensiero, e ci dice che è qui col pensiero. Vabbè, ho capito. Però, anche noi, eh. Non è che sta a mangiare, anche. Sicuramente. Balordo. E poi volevo salutare mio cugino Davide, che ci saluta dal profondo sud. Ciao Davide. Non lo so se è in giù, boh, non lo so dove sia, dislocato. Dove sei in questo momento? Infatti facci sapere. È un pacco di Natale spedito in giro per l'Italia. Per il mondo. O fa il giro dei parenti, che questa è più furba. Ma da noi non è ancora venuto. Arriva. Vabbè. Ci arriva. Allora Tony, com'è andata la settimana? Visto che abbiamo fatto una settimana. Abbiamo chiuso una settimana lavorativa anche per quest'anno. È vero. Siamo tutti in vacanza da oggi, no? Sì. Anche tu Katia, meno. Che sei qua, che anche Katia con i suoi studi è in vacanza, quindi siamo tutti in vacanza, siamo tutti belli tranquilli. Il periodo più bello dell'anno, teoricamente. Dovrebbe essere il periodo più bello dell'anno. Io, vabbè, c'ho ancora un po' di influenza, ma dovrei... No, vabbè, ma si sta sistemando. Io l'ho dai. Sfiorata appena. No, io l'ho presa in pieno, ma come fortunatamente... Un treno, bam. Ecco, infatti. Io mi sto difendendo vai, con tutta me stessa. Ieri ne avevo due in casa. Madonna. Infatti spero che poi dopo gli ospiti... non diffonderemo germi anche agli ospiti. No, così. Qui live vengono qui live stasera. Sentito stasera il singolo. Ci ha mandato anche loro il singolo da. Sì, no, ma è allucinante. Ho visto il video. Ma sono molto, molto particolari. Molto particolari. Era bello, sarebbe stato bello sentirli live, però vabbè, ci è sfuggita l'occasione. Maschere. Vediamo, li aspettiamo. Vengono in tre o una... Non lo so. Ho parlato con due diversi di loro. Li ho confusi. Ma si conoscono tra di loro? Non so nulla. Scusami, non spoileriamo. No. Teniamoci le domande da fare per dopo. Ok. Continuiamo con un brano che mi sembra che avevi selezionato anche tu tempo fa. Sì, non è male. Sì. Quel poco che hai selezionato quest'anno. È stato dai, uno spiraglio. Ecco, infatti. Lui è di Echo Project e Smooth Genestar ed ha fatto praticamente una serie di remix. Noi andiamo ad ascoltare un brano che sta già andando sottofondo, che è di Voyage. Di Echo Project è l'autore. Il titolo è Voyage, remix di Smooth Genestar. Perché Smooth Genestar ha fatto sto album di remix. Okay. E il brano è Chill Out. Quindi rimaniamo sempre un po' sul tema. Lo passiamo a Fabietto. Giusto, anzi, magari dopo lo chiamiamo. Okay. questo che sta andando ancora in sottofondo è il brano di Dieco, Voyage. Smooth Generastar. Genestar. Tra l'altro ho detto che era chill out, però secondo me è anche chill abbastanza house, ecco. Chill house, bravo, chill house, chill house. Io la domanda da fare è quella che sta uscendo. Doveva fare un'operazione di marketing, però mi sa che non gli sta riuscendo benissimo. Vabbè, glielo chiediamo dopo. Facciamo finta come se non ci fosse. Mi diceva che tra l'altro ci mancano 6 persone per arrivare a 900 follower su Instagram. Quelle non so che non me ne frega niente. Quelle che mancano stasera. Quelle che mancano stasera, bravissimo. Adesso tutti quelli che vengono stasera diciamo metti like. Stasera poi c'ho una... Come dire, informato rapina con questo cappellino. Tu sei informato rapina, io sono informato tipo Eros Ramazzotti. E tu come, in che formato sei? Incazzosa. Lei Crista. E Mary Crista. Mary Crista. Ma voi non volete arrivare a fine serata, né? Beh, se ci... L'avete appena ammesso? No, assolutamente. Non è che... Vabbè, spargeremo un po' di sangue in giro. Vabbè. Ci vuole un po' di rosso. Rimane a Natale. Infatti, rimane in tema con le giornate che ci attendono, no? Sì. Vabbè, prima stavo chiedendo un po' ai miei soci come si chiamava il prossimo brano. Tra l'altro, il prossimo brano è della Block Sonic, questo lo so bene. Ed è una bellissima copertina dove si vede questa scimmia che colorata di giallo, che non so cos'è che sia. Sembra che stia suonando la batteria senza batteria, non lo so. Sì, sembra che rimane qualcosa, però una posizione così. E tra l'altro l'artista si chiama Cheese, quindi è formaggio. Non ho ben capito la logica tra cheese e la scimmietta. Non lo so. Vabbè. Poi in inglese monkey. Infatti. Tra l'altro è uscito, questo è un altro un EP rilasciato su Block Sonic del 2018, 17 agosto 2018. E il brano che andiamo a ascoltare ve lo dicono i miei soci, visto che sono più bravi di me. Lo dico io. Allora, vai. Pray tape it. Call in. Oh, perfetto. E dovremmo tornare su un po' sul genere più hip hop, abstract hip hop o cose del genere. Andiamo abstract hip hop. Andiamo ad ascoltarcelo. Call-in show, where we tape all our shows a week in advance. Try it again. Doing a show about pet care. No, I'm not doing a show about pet care. Don't call the talk about it. It's really not that hard. Our topic, once again, the elderly. Here we go. Hello. I'd like to talk about my grandma. Well, all right. Yeah. Well, she has this cat that's keeping her up at night. Can I just say that difficulty with sleeping is a common problem with the elderly of today. The cat is more the problem. Cats rambunctious. Obviously, your elderly grandmother is the problem. I guess regular cuts just isn't good enough for you. Questo era più in tema per come sei vestito. Addio, tu. Che botta. Perché cosa hai fatto? No, cosa hai combinato? Ho cercato di fare un passo hip hop che non so neanche io se si potrebbe chiamare hip hop. Un break. Hai fatto pop. E dove hai fatto stroke. Hai fatto stroke. No, ma no, non hai mai visto che c'ho già il cappello yo-yo molto ya-ya. Sì, ma botte non ne ho sentite. No, ma l'ho sentita interna la botta. Cioè, sentito... l'età. Oh, che te devo dire? Io ci sono provato a fare un po' il b-boy, ma. Sì. Una pippa. Sì, ma hai una certa anche adesso. Sì, è vero. Comunque, volevo dirvi che abbiamo ascoltato il brano della Block Sonic. E prossimamente faremo probabilmente un'esterna dove faremo la nostra ultima puntata dell'anno e faremo un po' il meglio delle etichette, faremo gli awards delle etichette che abbiamo passato a Wolf Trips e sicuramente Block Sonic ci sarà. Tra un'offerta e l'altra. Tra un'offerta e l'altra, bravissimo. E, no, caspita, devo dire un'altra roba, mi è proprio sfuggita di mente, vabbè, pazienza, vedi la vecchiaia avanza in ogni caso. No, risalutiamo Davide che mi conferma che ci ha sentito e che è in Calabria. Sì, sì, è in Calabria, quindi mi conferma questa cosa qua. È arrivato al confine. Sei con Fede? No, è la persa. Vabbè. Vabbè, dai. Abbiamo iniziato proprio, Cioè, lui sta facendo tutto. Allora. Tutte le persone che mancano, lui le ha riassunte in sé. Allora, Fabio, ci sono le foto. C'è questo qui che. Non so neanche io come chiamarle. Queste cose che dice. È allegria. Allegria natalizia, dai. O da tachipirina. Può essere. Anche, sì, anche. Ci potrebbe stare una base giusta. Sei rimasto a casa? No, mai. Malissimo stare a casa, malissimo, fa malissimo stare a casa. Non si può. Intanto alla sera era lì che moriva. Vabbè, l'importante è arrivare alla sera. Cioè poi... Allora, andiamo a ascoltare il prossimo brano che riprende ancora la famosa etichetta Dust & Wax, però è dell'artista Proletaire, che tra l'altro ho visto che sta spopolando un po' su internet, sta andando veramente avanti tanto, però andiamo a ascoltare un brano del 2012, quindi non è una roba nuovissima. E, è giusto anche ascoltare le origini di un artista da carina scoprire. La copertina. Sì, lui che produce qualcosa con una Kai, sembrerebbe. Ma effettivamente lui nei suoi video si rivede sempre con i suoi, diciamo, attrezzi del lavoro, a questa mestiere. Attrezzi del mestiere, sì, anche sì. Lui credo che avrà una discografia in vinile paurosa. Sì, infatti. Andiamo a ascoltare il brano che si chiama Downtown Irony. Sì. E non so bene il genere. Lui in generale produce comunque electro swing, lo-fi, strumental hip-hop. L'altra volta avevamo ascoltato qualcosa tipo boogie, di genere boogie, electro boogie. Andiamo a vedere cos'è questo qua. We'll be right back. questo qua è un brano di Proletaire con Downtown Irony. È un po'... me lo aspettavo un pochettino più gioioso. Un movimentato. No, era un po' dark. Un po' atmosfera dark. Da personale del... ma non lo so, proprio... è più allegro. Bravo, bravo. Invece questo qua era un po' più... prendeva qualcosa del Boogie, però era un po' più... molto più jazz questa. Forse sì, forse sì. Questo è un po' più jazz serio. Sì. Avendo ascoltato gli altri brani di Proletaire, effettivamente sono un po'... beh, ma secondo me un album ci può stare. Ci può stare, sì, sì, sì, stare. Sì. Anche come disco intro, anche chiusura. Ecco. Sì, sì, sì. Ti sì. ho dato un suggerimento, magari. Infatti, infatti. E invece stavamo guardando quindi le previsioni per Natale, che non sono, non è bianco Natale, quindi. Allora, arriva 2-3 giorni di caldo, nel senso che si arriverà a 14-15 gradi. E vabbè, il vero inverno dovrebbe iniziare dopo gennaio, cioè dopo il 1 gennaio. Ma questa cosa qua però l'hanno detta dopo il 1 novembre, dopo il 1 dicembre. Beh, io spero che un po' si sbagli, almeno per il freddo, perché ci vuole, non è che è stata questa sbiancatina così, diciamo. Che tristezza, però manco un giorno è durata. E vabbè, si sapeva che poi in realtà noi comunque dato che andiamo in onda ovunque, un po' in tutto il nord Italia, sì. Sicuramente in alcuni punti, no, forse dove andiamo in onda secondo me ha nevicato. Non devo chiedere una conferma, perché che ce la possono dare al numero 340-100-3617. Hai visto? Ormai lo sempre pronta. Giusto, giusto, giusto. Beh, io direi che concludiamo la prima parte, il primo quarto di Wolf Trips con questo, diciamo, abbiamo fatto un po' una parte bella soft per stasera. E andiamo a ascoltare il brano dei Sardinia Bass Legalize, che avevamo già intervistato, ascoltato. No. Allora, il brano si chiama Sardinia Dub Legalize. Hanno fatto un po' un gioco di parole col genere, immagino. Beh. Sì. E così concludiamo. Lo salutiamo un po'. Che magari... salutiamo, che è stata una bellissima intervista. Simpatico. Molto simpatico. E così magari concludiamo questa parte un po' più dub, un po' più tranquilla della giornata. Va bene. Thank you. Lipsticks. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi. Per due ore di musica underground. Ci voleva il jingle di Fabio. Tu mancia, tu mancia. Io mangio. Abbiamo ascoltato intanto, prima della pausa, i BR Styler con il brano Japlan e il titolo del loro album che si chiama In Dubstria. In Dubstria. In Dubstria. Adesso non saprei dirlo. In Dubstria. In Dubstria, in Dubstria. Mi ricorda un cartone animato. È molto bello Industria. Il brano. In Dubstria. Conan. Ah, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero. Il brano era molto bello. Peccato solo che questo collettivo, leggendo un po' di recensioni, si è scollato. E... mi spiace molto, mi spiace molto. Loro si chiamano i BR Stylers, non mi ricordo se l'avevo detto. Mi sta venendo l'Alzheimer stasera. Credo di sì, che l'hai detto. E il brano, questo, in particolare, risale al 2009, quindi non è neanche nuovissimo. Anni, Non è neanche nuovissimo. Caspita, 9 anni. Magari anche conoscere che cosa hanno fatto dopo. Andremo a indagare nei nostri prossimi viaggi. Nei nostri prossimi viaggi. Questo brano l'ho scoperto perché era collegato alla solita A Quiet Bump. Tanto per cambiare. Però tutto sommato non è male. Non è male. Ho saputo che sono nati poi dei gruppi da questo collettivo. E il problema è che non hanno pubblicato nulla su Netlabel. Quindi non siamo autorizzati a passarli, ecco. Dovete, così. Dovete pagare. Vabbè, magari sono bravi. Però la qualità effettivamente sono bravi, sono bravi. No, bello. No, sono tranquilla. Si è tranquillizzata. Sono andata a fumare dopo per questa canzone. Per due minuti posso stare tranquilla. Ecco. Quindi io direi che iniziamo a incrementare sempre un po' di più il beat. Così ci scaldiamo anche un po', perché oggi fa un po' freddo nello studio. Eppure non è che così freddo alla Non lo so, sono io che sto morendo di freddo. Sì. E andiamo in Francia, 2016. E lui è un artista che si chiama Cognitive. Sì. E l'avevamo già ascoltato forse qualche brano. E ha fatto una discografia immensa, cioè una cosa, adesso vedo se riesco a recuperarti una pagina, diciamo, della sua discografia. Tutto, ma nel net no, non è, ah. Molta roba in realtà qua non rende, però la sua discografia è veramente lunghissima. Su Bandcamp Cognitive c'è veramente di tutto. Andiamo a ascoltarci un brano del 2016 che si chiama Mustang Melody. Hai ragione. Cosa succede? No, c'è la parola Mustang che è sempre una diatriba. E adesso andiamo a scoprire come si dice. Fucking way. Stupid fucking one. Back, boogie to the boogie, set up your hand, boogie to the bang, boogie, let's rock. riuscivo a capire quando entrare. È un pezzo che incalzava. No, veramente, cioè, secondo me la tachipirina è ideale. Vabbè, eh, dai, io mi sto ripigliando comunque. Tanto ci hanno aggiunto gli ospiti che poi adesso li presentiamo per bene. Okay. Teniamo ancora un po' di suspense, così almeno facciamo una cosa fatta bene. Quindi ti è piaciuto questo brano? No, mi sta piacendo tutta la scaletta stasera. Stasera siamo partiti belli tranquilli. È anche il brano che poi sì, non faccio spoiler. Che palle di spoiler. Sì, infatti, non dirlo più. Non dirlo. Sì, ma tu dici sempre feedback, eh? Non è che vai molto lontano a fare l'inglesino, te. Aspetta. Dove vai? Tanto se ci possono guardare io da Facebook. Ma problema, come si fa? Ecco, possiamo riassumere tutte le puntate di una comica. Ecco. Devo riuscire a fare una lista di dei vari Facebook che abbiamo fatto delle dirette con quello che è successo. Tipo, settimana scorsa tu ti eri ammazzato con la cuffia. Sì. E poi io l'ho menato. E l'ho riguardato, stavo morendo da ridere. Adesso è successo lei che cade con la puoi sedia. Mettilo anche su YouTube dove vuoi. Ti lascio i miei diritti d'autore. Va bene, va bene. Oh. Continuiamo col nostro giro musicale. Andiamo in Portogallo. Ma che c'è le cuffie. Infatti, non ti girare. Il brano che ascoltiamo dopo è di Antonio Bizzarro. Quella. È Portogallo. Così mio omonimo. Il tag che hanno messo questo brano è Industrial Electronic, quindi non so cosa aspettarmi. Anche perché voglio dire, solitamente quelli che mettono in giro, poi dopo ascolti il brano e dici ma che stai a dire? Però effettivamente lui è un produttore anche di brani per fiction, per film, e ha fatto questo EP rilasciato ovviamente su Netlabel e tra l'altro è messo in download gratuito anche su FMA, che è un portale molto famoso per chi segue. Sta vivendo ancora benissimo, meno male. Che si è ripreso, Okay. Effettivamente ha avuto un attimo, calo, tra virgolette, di crisi e poi dopo si è avuto un nuovo finanziatore e probabilmente il progetto andrà avanti. Andiamo ad ascoltare Antonio Bizzarro con Side Effect. ascoltato praticamente tutto il brano. Che è successo? Diciamo che ci sono vari punti di vista di ascolto. Cioè? Dal basso verso l'alto. Ah, ho capito. Suoni, no, non, suoni non previsti. Non collabora. Io collaboro. Seggiolino. Ok. Comunque dai, un po' di industrial c'era in questo brano, un minimo. No, tu non l'hai ascoltato, ci credo non l'hai ascoltato. Stavi parlando con i nostri ospiti. Non è che ce l'ho, no? No, secondo me un po' di industrial c'era. Io non sono poi così patito dell'industria, dunque non potrei dire qualcosa. Vabbè, un mischione, dai. Tanto io volevo salutare Diego. Diego dice di no, vabbè, lui forse ne sa un po' di più di noi. Ma lui è pollicissimo, lui è peggio di me. Ciao Diego, ben arrivato. Diego polemica. Buonasera. Diego polemica non è male. Se quello era industrial. Un po' di industrial, dai, vabbè. Rischiamo. Industrialina. Io industrial c'ho in mente Trent Reznor, però. Vabbè, ho capito. Vabbè. I ministri al massimo. Diciamo che era un artigiano piccolo piccolo. Sì, infatti. Una fabbrichetta era figlio di industria. Vabbè, qua mi sa che i nostri ospiti scappano. Tra due secondi vanno già via. Vabbè, facciamo così: ascoltiamoci il prossimo brano. Ci facciamo un attimo di pausa e poi dopo ritorniamo con un po' di musica. Non ho assolutamente nessuna informazione su questo brano. È di un certo Massimo Ruberti, Materia. Chi lo sa? Un altro brano elettronico, comunque. Potrebbe essere anche inglese. Andiamo a ascoltarcelo. Thank you. Strips. Wall Street. Wall Street. We'll be right back. Pezzo bello, il problema è difficile entrare nel punto giusto di sto brano qua. No, il brano è un brano della etichetta Brooks. E quindi sul genere un po' più techno berlinese, visto che comunque proviene da Berlino. Ed è un brano di Electronic più Gabriel Vitel, quindi avevamo già sentito entrambi gli artisti. Sì, questo non lo devi dire quando abbiamo fame, Vitel. E Old Tortures, che poi vabbè non so perché questo titolo, però vabbè, avranno i loro buoni motivi. Qualcosa di allegro non ci sarà mai. Infatti vecchie torture, vecchie torture. Due, E intanto, se vi collegate sulla nostra pagina Facebook, vedrete dei loschi individui dall'altra parte della cattedra, ecco, vediamo così. Ciao. E loro sono i Modular. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ma presentatevi, diteci qualcosa di voi. Come vi chiamate prima di tutto? Visto che non sappiamo, non possiamo, o non volete dire nulla, visto che modular avete uno. Ok. Due. In realtà due. C'è anche un Modular 3 che stasera non è riuscito a raggiungerci, purtroppo. Marca miseria. Quindi siete in tre. Sì. Bene. E avete suonato ultimamente anche in giro dalle nostre parti. Noi dovevamo venire anche a vedervi, ma poi abbiamo avuto un piccolo contrattempo. E voi fate un genere di musica, quindi sull'elettronica, live, prettamente live. Assolutamente sì. Perfetto. E assolutamente mascherati. Certo. Assolutamente. Fantastico. Sì, certo. Ma come mai questa mania della... Così non si vedono le facce brutte che facciamo quando suoniamo, ad esempio. Beh, quello potrebbe essere una buona spiegazione. Io li ho visti, hanno delle facce molto simpatiche. No, però se magari fai delle nuove persone, devo dire. Sì, vabbè. Così pare. Che altro... la maschera è un po' il tramite nostro che utilizziamo per entrare in questo mondo musicale. Tutto lì, non c'è un motivo. Vabbè, ci sta. Ci aiuta a entrare dentro nel nostro mondo sonoro. E un po' ci estranea anche da tutto quello che c'è intorno. È giusto anche, magari quando uno suona si isola un po'. È come per concentrarsi. Come se vivesse un'altra vita, diciamo. Sì, in un certo senso sì. Che sembra una cosa veramente un po' poser questa. In realtà no, per niente. E ce ne si accorge nel momento in cui lo si fa. Sì. Ma il nome invece è Modular, da posso immaginare, però magari voi avete tutto una spiegazione, no? Ma anche qui, quando è nato questo progetto, eravamo in tre, ci siamo fermati un attimo per cercare di capire quale poteva essere un nome, un significato che ci potesse rappresentare. Tra quelli papabili, Modular ci piaceva di più, semplicemente perché ci faceva un po' pensare a questo mondo dell'elettronica in un modo più ampio. Ci suonava bene, sostanzialmente. E poi era estetico. Sì. È anche spaziale, perché poi ne parleremo anche del singolo che hanno pubblicato. Giusto. E del video, che è stupendo. Sì, è tutto, diciamo, quello che cerchiamo di fare è mettere anche un po' di arte nel limite del possibile in quello che facciamo, e anche l'arte modulare in generale, il design, tutto quello che può essere anche al di fuori del mondo musicale ci appartiene, ecco. Sì. Va bene. Facciamo così, andiamo a ascoltarci il vostro EP, che quindi, da quello che mi dicevate, singolo. Scusami, è vero. Infatti volevo dire, infatti era proprio quello che volevo dire, che il vostro singolo, quello che mi dicevate, che invece anticiperà un vostro EP più avanti. Anticiperà un altro singolo. Ah, un altro singolo, ok. Stasera è fuori. È la tachipirina, ragazzi, scusatelo. No, allora, questo è uscito da poco, comunque il singolo che stiamo per ascoltare è uscito per un'etichetta di Dubai che si chiama Find Your Soul. Ne uscirà un altro per un'etichetta invece italiana che si chiama Altrove Music, e più avanti uscirà un altro singolo con diversi remix e con un EP per un'altra etichetta di Londra. Il giro del mondo. Infatti, partendo da Dubai, hanno fatto un bel giro. Che a Dubai producono certe cose. Beh, andiamo ad ascoltarlo, poi dopo ne parliamo subito dopo. Quindi è Island in the Sky. Yes. I'm Allora, devo correggermi prima perché ho detto una fregnaccia. Ah, beh, ridici tu il titolo. Island in the Sky. Ok. No, era doverosa. Era doverosa. Scusate un attimo, ma Isola mi ricorda. Io perché sono di parte Ibiza. Ecco. No, sì, lo so, vabbè. Un disco che metterei sull'isola. No, il pezzo era molto elettronico. Era molto elettronico. Ne volevo chiedervi un po' di informazioni. Ho visto che avete fatto anche un video su questo pezzo. Sì. Di cosa parla un po' il video? Ma allora, questo brano è stato il primo che abbiamo scritto, perlomeno il primo che ci ha proprio resi partecipi di questo progetto. Il titolo Island in the Sky rappresenta sostanzialmente un posto fantastico, okay, lontano dalla civiltà di tutti i giorni, insomma, come si potrebbe... Un posto in cui l'uomo arriva e esaudisce i suoi desideri. Sì, però dove si trova estraniato, cioè non è più lui quasi, si dematerializza, non diciamo. Non è più nel nostro mondo. Esatto, sì, esatto, un mondo fatto di creature analogiche, digitali, perturbazioni radio, esatto, animali fantastici, sì, frequenze, cose, onde, cose. E quindi nel video sono trasposte tutte queste idee? Sì, il video abbiamo sfruttato un film italiano degli, sì, anni 70, è un B-movie della serie, di quei film che sono talmente brutti da risultare poi comunque affascinanti, che nel diventano tempo. Sì, sì. E il titolo del film era? Qualcosa di simile, forse Attacco della Galassia. Sì, sì, una roba tipo Power Ranger. Sì, sì, ho capito. Ho capito i tipi di film. Stracult, come il programma che c'è sulla Rai, no? Sì, sì, sì, sì, ecco. Anche Rai Gulp, volendo. Sì, sì. Quindi era un po' questa. Un po' invece una cosa tecnica. Nel brano, quello che abbiamo ascoltato prima, c'erano degli strumenti quindi suonati, immagino, presa diretta. Cioè, come è stato realizzato? Tutto a PC? È stato realizzato con tastiere? Questa è un po' una mia curiosità più tecnica. Diciamo che oggi senza PC non si realizza neanche un album heavy metal. Quindi, cioè, sicuramente il PC è diventato uno strumento vero e proprio, no? Per sia la produzione che l'editing musicale. Nel nostro caso noi utilizziamo strumenti analogici, si parla di sintetizzatori, quindi chiaramente il PC è uno strumento che serve per registrare, quindi con le tracce, con i plugin, eccetera. È il collante di tutto. Sì, certo, sì, sì, sì, in un certo però senso, il fatto, sì, che comunque suonate qualcosa con dei sintetizzatori è bello, mi piace. Cioè, anche dal vivo, chiaramente. infatti, anche perché poi hai dei risvolti dal vivo un po' meglio, diciamo, di chi fa il classico play e basta. Sì, quindi sì, è qualcosa di un po'... Cioè, perlomeno ci proviamo, alla fine... Vabbè. No, il nostro live, senza niente a togliere, è una via di mezzo tra un DJ set, un set di elettronica suonata live e un concerto punk, perché alla fine ci mettiamo dentro... L'attitudine è quella. Beh, sì, almeno che c'è anche un po' tutta di movimento. Sì, sì. Arriviamo comunque da ambienti rock, tutti e tre. Ok. Beh, poi sì, sì, diciamo che è cosa un po' avuto si sente un così. Si è illuminato. Vabbè, no, il nostro ego fa solo programma metal, quindi non può che essere contento. No, però effettivamente stiamo notando in generale che c'è molto, infatti rubo sempre le frasi da quello che ascolto. Stavamo parlando prima con Tony, effettivamente c'è molto la tendenza a passare dal punk, rock, più che altro dal punk, sì, vero, tanti dal punk, alla musica elettronica, poi suonate in live. Che poi appunto adesso è un'altra forma di punk alla fine, cioè. Sì, nel senso, no? Sì, cyberpunk, ecco, esatto. Sì, vabbè, che cambia chiaramente il mezzo a disposizione, però se c'è l'attitudine è quella. Quella, sì, sì, sì. Allora, noi in realtà dopo volevo farvi anche qualche altra domanda ancora. Purtroppo non abbiamo altri EP altri singoli da mettere. Ce l'ho su questi EP stasera. Vabbè, possono stare con noi. No, infatti, no, io ho ancora un po' di domande, quindi li trattengo qua. Andiamo a ascoltare. Le origini musicali, ecco. Infatti, cioè, le solite, le sai, ormai le mie domande di rito. Andiamo a ascoltare un altro brano. Purtroppo non è loro. Aspettiamo il vostro prossimo singolo. Quando è che ha detto che era allora, previsto? Il prossimo singolo, l'uscita è prevista il 18 di gennaio, sì. Ok, con l'etichetta okay. Altrove Music. Sì. Quindi direi che potremmo sentirci magari verso maggio. E uscirà anche un altro nel video frattempo, molto bello. Esatto. Oh, bene, questo bene. A gennaio. In realtà a febbraio inizieranno a uscire i remix del singolo successivo, okay. Che uscirà insieme all'Inter EP per questa etichetta londinese che si chiama Pins and Needles. Perfetto, perfetto. Quindi sicuramente ci risentiamo anche più avanti. Stasera sto facendo una selezione musicale un po' particolare, dai. Ci piace. Oh, bene, sì. bene. Non era molto estremo sto pezzo, dai, era più tranquillo, però. Un po' lounge, dai. Sì. Mancava sì. un mojito, poi. Guarda, cioè, poi comincia a diventare un po' più strano. Ecco, infatti. Sempre in compagnia con i Modular. E io avevo sempre un'altra domanda, solo qui dall'inizio della puntata, poi dopo. Ormai li tirerai scemi fino alla sera. Beh, certo, sono venuti qui. Ma è giusto, beh. perché ne sono venuti qua per 10 minuti. No, volevo chiedervi la, l'idea del progetto. Penso che poi si basi su quello che siete stati, cioè il vostro percorso un po' musicale, no? Cioè. Volevo capire un po' quali sono i vostri riferimenti musicali che poi vi hanno portato a fare i Modular. Che domanda difficile. No, dai, più, dai, no, no, facciamo no. Un riassunto. Bravo, bravo, bravo. L'ha rubata anche a me. Partiamo da, cioè, vabbè, dal prossimo. È complicata. C'è all'interno, senza fare i nomi, all'interno di noi c'è gente laureata al conservatorio, gente che ha aperto i tour dei 20 Second to Mars. Okay. Oh, mamma. Gente che ha avuto band metal di un certo successo, anche internazionale. Ah, bene. E quindi veniamo veramente da mondi completamente diversi, dalla classica contemporanea sperimentale all'indie più spinto. Non so, a un certo punto ci siamo guardati in faccia, ci conosciamo da tanto tempo, sì, tantissimo, e abbiamo deciso, chi lo sa, per un cambio di vita, per una necessità anche nostra. Ma sì, alla fine, sai, nel tempo uno cambia i propri gusti, cambia i propri ascolti se è spinto da un po' di curiosità, no? Cioè non si fossilizza solo su una cosa. Noi a un certo punto ci siamo un po' incrociati, no, in questo percorso, più di ascolto forse che di produzione, abbiamo detto ma perché non produciamo anche? Sì. E così abbiamo fatto. Sono nati 20 pezzi in giro in pochissimo tempo. Sì, questo sì, sì. Diciamo è il lato vostro, cioè che nella vita voi siete delle persone sposate, comunque... l'alto artistico. Sono, ecco, questo è il vostro sfogo, ecco. Quella parte punk che è rimasta in voi. È sempre così, penso, no? Sì. Tutti quelli che fanno musica, comunque, sì, in un certo senso, sì, non è più di uno sfogo, forse, no? Sì, è un'esigenza di espressione artistica. Quasi fisiologico. Sì. Sì. Io dico, ma con i vostri progetti, cioè, il vostro passato, tanta gente è nata anche all'estero ad abitare per suonare. Come mai siete rimasti in Italia avendo appunto un passato un po' così glorioso alla fine? Cioè, un percorso di. Si fanno delle scelte. Uno di noi aveva comunque... Colpa delle ragazze, ve lo so. No. Forse merito. Ah, vi hanno salvato. Penso che se fosse per le nostre relative mogli, fidanzate, saremmo probabilmente in Svezia in Islanda. In un fiordo. Nel mio caso, parte. Sicuramente. Sì, sì. Come si nota dal cappello anche forse. Sì, penso di sì. No, sì. È semplicemente andata così, sì. E è tutto andato per gradi. Bene. Interessante anche il fatto che comunque vengono da mondi diversi e alla fine fondono un genere, è vero, sia elettronica, però ha anche tanti risvolti, perché comunque c'aveva un po' la metrica, non era proprio da musica elettronica del brano, era più da musica, da brano diciamo un po' più rock, no? Però i suoni erano completamente elettronici, la voce era col vocoder, quindi sì. È proprio l'unione di diverse... Diciamo, sarebbe stupido dirlo di Daft Punk, per dire, ecco. Ma non solo. Perché anche loro hanno studiato conservatorio. È un complimentissimo, sì, questo per noi, chiaramente, anzi. Senza ispirarsi in particolare a nessun artista specifico. Sì. Beh. Ovviamente per uno fa su un po' le sonorità che ama. Beh, poi la musica è quella, diciamo, non è che uno inventare qualcosa. Sì, è vero. Quasi dici? C'è chi lo fa. Insomma, sì, no? Sì, quindi sì, nel sì. Tempo ci sono stati artisti che comunque hanno sicuramente creato qualcosa di nuovo. Non so, penso ai Radiohead piuttosto che Sigur Rós, piuttosto che, non lo so, Bjork. Ah, beh, te sei più islandese, Paoli. Ma in realtà io parlo per lui. Va bene. Andiamo a ascoltare il prossimo brano e poi dopo ritorniamo ancora con qualche domanda. I'm gonna make you mine. futuro. L'ultima parte di Wolf Trips è sempre un po' techno. Questo sì. Qua era un brano dell'etichetta Monophonicos della Portogallo, mi sembra, quel giù di lì. E il titolo, l'autore è un po' impronunciabile, sarà Di Sam. Io lo dico così. E il brano è Tension. Sembra te, guardi me quando parli inglese che sembra che io sono un teacher. Aspetta, dillo. Che cosa dici? Tension. Io devo fare un corso prima di fare da stasera, prima sì? di andare a letto ti metto sulle cuffiette con un corso di inglese, pronuncia inglese. Beh, allora hanno studiato perché poi pubblicano per l'etichetta londinese anche quella di Dubai, c'è, penso, sempre Google traduttore. Google Translate. Ma su quelli di Dubai avete parlato in inglese, penso. Sì, tutto in inglese. Come è successo questo collegamento tra voi e un'etichetta di Dubai? Cioè, ma allora c'è stato l'interessamento da parte di un DJ, diciamo, di fama anche internazionale. Diciamolo i nomi, dai. Si può dire. Se volete. Shima Desarate, sì, esatto. Che è in realtà il proprietario proprio di questa label. Che è il dirigente di Ministry of Sound. Esatto, dirigente di Ministry of Sound. Che sti cacchi. Una cosa piccola, sì. Piccola. E niente, quindi ci ha contattato semplicemente, e ci ha fatto delle proposte e noi le abbiamo accettate. Sì. Sì, veramente così. Cioè, Ministry of Sound è un'istituzione. Cioè, io vedo solo le compilation dal mio lato di vista. Cioè, sì. No, è un gran DJ lui. Sì. Non conoscevo il nome, sinceramente, magari l'ho letto. Beh, è l'etichetta Ministry of Sound, per chi non lo sapesse, comunque quello che ha prodotto anche Avicii e via dicendo. Forse anche Martin Garrix, parlando di DJ. Sì, lo so che non è il vostro mondo. Però sì, voglio dire che quella. Se entrate in un certo giro. No, anche perché l'etichetta poi non è Ministry of Sound, ma è sì, vabbè, è un'etichetta indipendente. Comunque alla fine sì, beh, però i personaggi sono quelli. Quelli. Sì. Sì. A proposito di questo argomento, stavate dicendo prima fuori onda che avete le date piene fino a Fine 2019 sicuramente. 2019. A livello di uscite. A livello di uscite. Come stiamo lavorando in questi giorni alle uscite che faremo, diciamo, nei prossimi 10 mesi. La prossima uscita 18 gennaio Altrove Music. Il brano si chiamerà Back to the 90s, ispirato a tutto quel mondo che gira intorno un po' a Marcord degli anni 90. Sì. Seguito da, accompagnato o seguito, vedremo, da un video che stanno girando in questo momento in stanno VHS, montando, in VHS, esatto, il sound sarà di stile Corona Gigi D'Agostino. No. No, vabbè, però no. Magari ci sarà anche dentro. Ci interessa un po' questa cosa, perché noi siamo un po' polemici sì. con la storia degli anni 90. Perché tutta una questione si basa soprattutto fine anni 90, 2000, cioè pochissimi artisti, ma comunque la musica dance è stata molto più ampia negli anni 90. Negli anni 90 ha detto dance, può essere qualsiasi cosa. È vero, scusate. Hai citato Gigi D'Agostino, che comunque adesso, vabbè, io quando sto cedendo, c'era il culmine di quel tipo di suono in Italia, non lo seguivo perché seguivamo un'altra cosa, però ho sentito quel senno di poi. Ha fatto delle cose innovative, comunque, che possano piacere o no. Ah, ok. Che hanno cercato, tra l'altro, di imitare all'estero senza riuscirci benissimo. Sì, eh? Sì, è vero. Già. Comunque. Invece il vostro progetto, quindi, cos'è che va a questo progetto Back to the 90s? Sì, si rifà più che altro al non so, qualcosa di un po' più forse profondo, se vogliamo. Di un po' più di Amarcord, ecco. Cioè il bello di quegli anni, ok, riportato comunque chiaramente in una chiave contemporanea, no? Perché sempre non si un pezzo può cantato. Andare esattamente a riprodurre, no, quelle sonorità, certo. Perché non avrebbero senso attualmente. Però sì, va un po' a riprendere quella realtà. Immaginario, sì. Ecco. Anche attraverso appunto questo video, adesso senza spoilerare, a proposito di parole brutte, sì. Spoilerare troppo, comunque sarà un video realizzato, esatto, sostanzialmente con VHS, che per chi non lo sapesse, perché magari è troppo giovane, erano proprio quelle videocassette che infilavi nel videoregistratore, faceva... sì, arrivavano già negli anni 80, esatto, anche quelli. A nastro. Esatto, sì. L'equivalente delle audiocassette in video. Wall Street. Alla ricerca delle idee del futuro.

Wolf Trips, i viaggi del lupo.